Fra fuggitivi io l'ho seguito in vano. E come un grido che nel bosco vicin perduto il campo e cercasse lo scampo. Già che signor non puoi col sangue di farnace, col sangue il men del figlio.